get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e benvenute a questa nostra 75esima trasmissione. Eccoci qui, siamo Caterina e Rosina e come di consueto passeremo con voi un'ora. Vi ricordiamo che dopo 45 minuti andrà in onda la nostra sigla finale, ma è soltanto un'esigenza logistica legata alla possibilità di registrare le nostre trasmissioni. Dopo la sigla staremo ancora insieme altri 15 minuti. Allora, siete pronte? Quest'oggi vi parleremo del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria, appena conclusosi a Bologna. Parleremo di diversi appuntamenti che ci aspettano, di diverse notizie e faremo andare in onda un'intervista effettuata da noi proprio ad Immaginaria. Vi manderemo anche il nostro punto di vista rispetto al tragico episodio di Novi Ligure e tanta musica di donne. Cominciamo subito con un breve resoconto del Festival Immaginaria che anche quest'anno, come del resto fa da sempre, vede incrementare le presenze di donne lesbiche che usufruiscono di questo importante evento. Evento nel quale non si possono vedere soltanto film provenienti da tutto il mondo in prima visione nazionale, ma si ha l'opportunità di vivere 4 giorni intensi in compagnia di registe, produttrici, artiste, buona musica durante le feste e appena altre 940 lesbiche che girano intorno a te. Già. Quest'anno per pochissimo non abbiamo raggiunto il traguardo delle 1000 donne, ma considerando che l'anno prossimo cadrà il decennale di Immaginaria, chissà, forse diventeremo davvero più dei 1000 di Garibaldi. Numericamente lo siamo già, considerando che ogni anno a Bologna non vengono sempre le stesse donne. E se facessimo uno sforzo comune per andarci davvero tutte quante insieme, sarebbe oltremodo bello. Bello come è stato ancora quest'anno, bello come è sempre. Ad Immaginaria poi è il pubblico che stabilisce chi vince avendo la possibilità di votare nelle diverse categorie. Ecco i risultati della 9ª edizione. Quest'anno c'è stato un premio speciale Immaginaria vinto dal film Indagine Sanitaria di Safila Randera che veniva dalla Canada, la quale prende in esame la possibilità di dipendere totalmente da un'altra persona, nello specifico la propria amante, dopo un incidente. Una svolta traumatizzante che implica una diversa percezione di sé e dell'altra. Poi c'è stato quest'anno per la prima volta il premio Universal Immaginaria, vinto dal film Il sacrificio di Vilma di Kat Lentigne, proveniente sempre dal Canada. Di questo film non vogliamo dire nulla per non rovinarvi la sorpresa qualora lo vedeste in televisione. Già perché quest'anno Immaginaria è riuscita ad ottenere un accordo con la Stream, la quale ha messo a disposizione dell'evento di Bologna appunto il premio vinto da questo film. Significa che questo film sarà trasmesso attraverso i canali dello studio Universal, avendo la Stream comprato i diritti di proiezione per l'Italia. Mi raccomando, non lasciatevelo sfuggire, vi ricordo un'altra volta il titolo, Il sacrificio di Vilma. E veniamo ora ai premi del pubblico, categorie sperimentali, ancora una volta mousse al cioccolato di Sabina e Monica Wenzel, proveniente dalla Germania. Un delizioso cortometraggio dove si parla di cucina e seduzione come un'accoppiata vincente. Riuscirà la cuoca a prendere per la gola le sue amiche? Del resto è risaputo che a volte mangiare non è semplicemente mangiare. Per la categoria narrativi, invece, il film Guardandoti di Stefanie Abramovic, proveniente da Israele, pensate un po'. Una dolcissima storia nella quale una notte le due protagoniste sono portate dal destino ad incontrarsi. La curiosità e l'attrazione reciproca sono immediate e l'avventura emotiva che vivranno segnerà un forte cambiamento nella vita di entrambe. E per finire, nella categoria documentari, il film Il gioco della settimana e le bambine di Marquise Lepage, proveniente dal Canada. Un bellissimo documentario sulla condizione delle bambine, le quali in tutto il mondo disegnano a terra per giocare la settimana, da noi più conosciuta come il gioco della campana, ma che per ignoranza, povertà, perversione, bestialità, cattiveria, superstizione, vengono violate. Adulti che violano la loro infanzia e i loro sogni, negando loro l'educazione, costringendole al lavoro forzato, sottoponendole a mutilazioni, ad abusi sessuali e ad altre ingiustizie. Le bambine intervistate vivono in India, in Thailandia, nello Yemen, Perù, Burkina Faso, Haiti, e tutte dicono che la maggior parte della loro infanzia è volata via, perché sono ragazze. Ogni anno ad Immaginaria vengono invitate delle giornaliste. Alla proiezione di questo documentario ha assistito una giornalista della RAI, la quale sembrava molto intenzionata a far sì che questo filmato venisse proiettato anche dalla televisione italiana. Speriamo che riesca a spuntarla, chissà. Magari lo vedremo tutte in televisione, ne varrebbe veramente la pena. Ora vi lascio in compagnia di un brano musicale cantato da Anastasia, Who's Gonna Stop the Rain? There is no rose without a thorn, no rain without the storm. There is no laughter without tears, no wisdom without Allora, come abbiamo detto prima, il Festival di Immaginaria offre diverse opportunità e noi abbiamo colto quella di poter intervistare Pina del gruppo delle Desiderande di Bari. Ascoltiamola insieme. Allora, siamo alla nona edizione di Immaginaria, è l'ultima serata e incontriamo la presidente dell'Associazione delle Desiderande di Bari, Pina, per chiederle qualcosa circa il progetto e l'elaborazione politica che loro stanno facendo in questo momento e che riguarda il rapporto che loro hanno con il lavoro, no? Con il tempo, con il lavoro e con l'imprenditoria delle donne. E allora Pina, se ci dici qualcosa a questo proposito. Allora, vabbè, in primo luogo saluto tutte quante che sono in ascolto. E allora, sono, come mi ha detto Lucilla, sono Pina dell'Associazione Lesbica Separatista Barese Desiderande. Sono stata invitata qui a parlare per poi esporre quella che è la nostra, appunto, elaborazione politica rispetto al discorso dell'imprenditoria femminile. Noi siamo un gruppo politico lesbico, per anni abbiamo soprattutto dibattuto su questioni più politiche, più teoriche rispetto al lesbismo, rispetto a che cosa significa e che cos'è l'identità lesbica. Nel corso degli anni il discorso si è in parte spostato sul rapporto che le lesbiche hanno col mondo del lavoro e in generale col discorso dell'economia. Per cui, partendo da una specificità nostra, che è quella di essere un gruppo separatista, noi siamo sempre state per un discorso relativo all'autofinanziamento. Autofinanziamento significa trovare da noi le risorse per poter non solo pensare ai progetti, ma poi alla fine realizzarli. E in questo senso, anche in questo senso, è nato il nostro progetto di masseria, in quanto è un progetto politico che però ha a che fare per certi versi col discorso economico, che significa trovare le risorse. E infatti la masseria come progetto imprenditoriale, tra virgolette, ha un suo utile che ritorna all'interno del nostro circuito lesbico. E partendo da questo, secondo noi un'idea molto forte che potrebbe darci forza, rafforzarci e darci la possibilità di avere da noi degli strumenti è quella di incominciare a pensare nell'ottica di una sinergia tra gruppi non solo politici ma in questo caso imprenditoriali, per cui la nostra vera forza potrebbe essere quella di appoggiarci, promuovere quelli che sono i nostri progetti da un punto di vista economico, dove l'economia secondo noi per molto tempo è stata un po' dissociata dal discorso politico. Sì, è vero. E in realtà invece ci consente di avere degli strumenti che diversamente o dobbiamo chiedere se abbiamo voglia di farlo, certo. E non è detto che li abbiamo, se non li vogliamo chiedere, cioè li dobbiamo ottenere, quindi li dobbiamo prendere, dobbiamo avere, e in questo caso per poterli avere, tipo una struttura come la masseria, comunque degli spazi dove poterci incontrare, fare delle cose, pensare, progettare. È complicato, esattamente. E del resto poi è anche vero che il rapporto delle donne con il denaro è un rapporto difficile, no? Sì, è un rapporto difficile, sì, è vero. Ma in generale non so, però per quella che è stata la mia esperienza all'interno del mondo lesbico, cioè quello delle lesbiche, c'è un po' questa dissociazione tra distanza, tra denaro, politica e denaro e politica, dove le due cose invece probabilmente non sono così completamente in disaccordo, dove per denaro non significa arricchirsi, ma significa appunto, oppure non significa gestione bieca del potere, semplicemente crearsi, certo, degli strumenti per poter vivere bene. E in quest'ottica, a partire dal questa idea, insomma, all'esterno l'abbiamo cominciato a far uscire, cioè è uscita fuori con la vacanza che abbiamo organizzato l'anno scorso a Capodanno, dove un po' lanciamo l'idea di questa connessione, sinergia tra le lesbiche rispetto al discorso imprenditoriale. E l'anno scorso in quest'ottica abbiamo promosso, appoggiato un progetto di imprenditoria lesbica che aveva a che fare con le vacanze. Ci sono due donne baresi che l'anno scorso hanno organizzato una vacanza per lesbiche in barca a vela, ed era un progetto anche imprenditoriale. E per noi, appunto, in quell'ottica, nell'ottica della sinergia, abbiamo dato questo tipo di sostegno l'anno scorso e quest'anno, perché il progetto è quello che volevamo, cioè è quello che poi la scommessa è quella che funzionano quei progetti che, certo, che realizziamo. Il progetto è andato bene, la vacanza è andata bene, hanno avuto il loro utile e quest'anno la stanno rifacendo, e noi, appunto, nuovamente promuoviamo, lo appoggiate, sì, lo, certo. E che ce ne vuoi parlare un po' di questa vacanza di quest'anno? Sì, allora la vacanza si svolgerà in Grecia, nelle isole Dragonera. La barca in questione è una barca 14 metri. E le due ragazze, le due lesbiche che organizzano questa iniziativa sono Valeria e Anna Maria. Sono due skipper, quindi? Skipper Valeria e Anna Maria, il nostro co-skipper. Mozzo. La co-skipper. La co-skipper. Per quanto riguarda il periodo, quest'estate sono 3 settimane, una dal 28 luglio al 4 agosto, l'altra dal 4 agosto all'11 agosto e l'ultima dall'11 agosto al 18. Posso dare qualche dato? Sì, infatti. Allora, per chiedere informazioni, per avere informazioni, si può chiamare allo 0347 660 7711, oppure sempre 0347 54 28 128. Hanno anche un indirizzo di posta elettronica che si chiama andarpermare@libero.it. perfetto. Sì, penso che, non so, avete qualche altra curiosità su questa vacanza? Sì, volevo sapere una cosa, essendo io un amante del mare, ma non essendo assolutamente capace né di andare su una barca già col motore, immagino che potrei avere delle difficoltà in una barca a vela, o queste vacanze invece sono per tutte? Allora, loro l'hanno organizzata e lo organizzano in maniera tale che anche chi non sa nuotare potrebbe andare in barca, nel senso che io l'anno scorso ci sono stata e realmente nella settimana in cui sono andata io c'era una donna di 60 anni che non sapeva nuotare, per cui loro si organizzano in maniera tale che anche il principiante può tranquillamente andare in barca. E tra l'altro è divertente perché loro la gestiscono in maniera tale che comunque tutto l'equipaggio partecipa un po' alla vita della barca, quindi dal mettere le vele a tirare le cime, per cui non è soltanto facciamo la vacanza, non fai la trasportata, ma partecipi. Sì, sono brava. Bene, sono molto contenta di questa informazione e soprattutto della promozione dell'imprenditoria femminile, e però vorremmo chiederti ancora se ci ricordi anche la vostra vacanza, la vostra iniziativa in masseria, perché ovviamente ci fa piacere. Certo. Allora, noi quest'anno la vacanza in masseria, è sempre in Puglia, vicino, naturalmente, sì, chiaramente, vicino Ostuni. E il periodo è dal 19 agosto al 26. Per informazioni si può chiamare allo 0368 377 7784, orario dalle 19 alle 22, oppure ci potete scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica desiderande@hotmail.com. niente, quindi ci invidi a venire. Sì, e anche noi vi, e noi invitiamo tutte quante ad andare. Grazie. Bene, Pina. Grazie, ciao. Appuntamenti. E cominciamo con i nostri appuntamenti. Quello più vicino nel tempo è relativo all'8 marzo. Abbiamo organizzato una festa al Buon Pastore. Il programma comincia a partire dalle ore 19, ci sarà un'inaugurazione della mostra di artiste di Roma dal titolo Emanazione. Il programma prosegue a partire dalle 19.30 con la proiezione del film Le ragazze del ponte di Emanuela Giordano. E alle 22 balliamo con la DJ Marzietta. Ricordiamo che come tutte le iniziative organizzate da noi e dal CLI, quindi dal Centro Femminista Separatista, l'ingresso è riservato alle sole donne. Vi ricordo l'indirizzo della Casa Internazionale delle Donne, che è in via San Francesco di Sales 1B. Per ulteriori informazioni potete telefonare allo 06 6864 201. La musica che accompagnerà questi nostri appuntamenti di oggi è tratta dal CD Holding Up Half the Sky, Voci dell'Africa, di donne, scusate, Voci di donne dall'Africa. Sentito da Pina delle Desiderande poco fa nella sua intervista, le Desiderande organizzano una vacanza in masseria dal 19 al 26 agosto di quest'anno. La masseria si chiama Oasi di San Giovanni e si trova a Montalbano, Torre Canne, in provincia di Brindisi. Vi diamo qualche informazione: la masseria può ospitare fino a 70 donne in stanze da 6-8 letti. È necessario portare asciugamani e lenzuola, sappiatelo, e è distante appena 4 km dal mare. Per le informazioni e le prenotazioni potete telefonare dalle 19 alle 22 allo 0368 37 777 84 oppure scrivere alle Desiderande, l'indirizzo internet è desiderande@hotmail.com. Diciamo che la musica di sottofondo sembra fatta apposta per questa altra notizia che vogliamo darvi. È pronto un corso di cucina multietnica al Centro Donna Lisa, domenica 11 marzo a partire dalle ore 18.30, corso di cucina peruviana. Il volantino dice: se l'appetito vi è mangiando, vieni al corso di cucina. Ti aspettiamo al centro per cucinare e mangiare insieme. Ricorda che è prevista la prenotazione. Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 06 87 141661. Il centro donna si trova in via Rosina Anselmi 4142 e la zona è Vigne Nuove. E ci sono diversi capolinea di autobus che possono facilitare il trovamento di questo posto è il capolinea dell'autobus 38 84 308 338 e 341. Tutti questi autobus portano nella zona Vigne Nuove, dove c'è, ricordiamo, il centro Donna Lisa, che organizza il corso di cucina multietnica. Domenica 11 marzo, cucina peruviana. Vediamo adesso qualche notizia. Si è aperto ieri a Torino il Festival Internazionale del Cinema delle Donne e chiuderà questa rassegna l'11 marzo. E si tratta di una rassegna cinematografica che si terrà presso il Cinema Massimo, appunto a Torino, che è stato fortunatamente rinnovato negli impianti e nelle strutture, e ospiterà appunto la 8ª edizione del Festival Internazionale Cinema delle Donne. Questo festival, che cresce ogni anno in qualità e proposte, approfondirà la propria esplorazione del mondo delle immagini femminili. Quest'anno, fra le ospiti, ci sarà sicuramente Samantha Lang, regista del thriller australiano Maschera della scimmia, con Kelly McGillis nella parte di una docente universitaria coinvolta in un'appassionata storia d'amore con una poliziotta. Presente a Torino anche l'attrice Eulalia Ramon, una delle protagoniste di Nosotras, un film catalano che sta spopolando in Spagna. Come tutti gli anni, la rassegna si articola in un concorso per lungometraggi, quest'anno sono 9, provenienti da tutti i continenti, un concorso per cortometraggi, e si prevedono 21 titoli, più una personale dedicata alla regista indiana Pratibha Parma, esponente di punta del cinema militante. E adesso vediamo un po' che cosa succede nel mondo. Vi leggiamo da un trafiletto di Liberazione del 3 marzo del 2001 un fatto accaduto a Rovereto. Frocio e comunista. D'altro canto non si sa quale delle due sia l'offesa peggiore. Durante il consiglio comunale di Rovereto è bastato davvero poco ad alcuni esponenti del polo per tirare fuori la loro vera anima nera. L'evento scatenante è stata solo una discussione democratica su una mozione a dir poco divertente presentata da Leonardo Boldrini, esponente della Lega. La mozione consisteva in due dispositivi, il primo in cui si chiedeva di imporre nelle aule crocifissi a norma, il secondo che fosse obbligatorio almeno una volta alla settimana di mangiare carne di maiale nelle mense delle scuole, in barba soprattutto al rispetto verso quegli alunni di religione islamica che a Rovereto rappresentano inoltre una percentuale piuttosto consistente. Al no di Donatello Baldo, di Rifondazione Gay, Pisoni, Alleanza Nazionale, non ha retto oltre il civile confronto. Quelli come te, gli ha gridato, sono contro natura, taci, alla faccia della tolleranza e della democrazia. E vediamo invece una notizia tutta italiana, pari opportunità, c'è uno spot per le donne in politica. Economia, singolare femminile. Giustizia, singolare femminile. Politica, singolare femminile. Potere, singolare maschile. In Italia la presenza delle donne nella politica è all'ultimo posto in Europa. Un singolare spreco di opportunità. E infine, le donne sono pronte per la politica. E la politica è pronta? Questo è il testo dello spot al centro della campagna Pari e di più, mirata a stimolare una maggiore partecipazione delle donne in campo politico. Presentata dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Marina Piazza, punta al riconoscimento delle capacità, competenze e intelligenze femminili. Non è una campagna vota donna, ma una campagna contro lo spreco delle intelligenze. Obiettivo della Commissione è infatti rendere visibile lo spreco, non lasciare tregua alla miseria di un paese che non riesce a valorizzare una parte fondamentale dei suoi cittadini. Un paese, ha aggiunto, è dimezzato se governa una parte sola. E tanto per continuare a parlare di pari opportunità, vediamo come si è successo a Bari. Mogli, non trascurate la casa, pulitela e lucidatela se non volete che il matrimonio vada a rotoli. Potrebbe accadere anche dopo 50 anni. In tal caso la colpa del fallimento è unicamente della moglie che ha trascurato la pulizia e l'ordine della casa. Per la Cassazione, infatti, questo comportamento è segno di disinteresse per le regole del vivere civile. Poi, chi ha mai stabilito che le deve fare necessariamente la donna, questo la Cassazione non lo dice. Ma la condizione della donna non migliora se andiamo all'estero. Sentite cosa succede in Francia. Metà delle donne uccise è vittima dei mariti. Un rapporto sulla violenza contro le donne, già nelle mani del ministro della sanità francese Bernard Kouchner, rivela che la metà delle donne uccise in Francia è assassinata dal marito o dal compagno. Il fenomeno, ha scritto ieri la Parisienne, è un vero problema di società e di sanità pubblica. Sono i numeri a parlare in modo drammatico. Il 50% delle vittime di omicidi a Parigi sono vittime dei partner. Il 10% delle donne è regolarmente vittima di violenze nell'ambito della coppia. Il 40% delle vittime tiene segrete le violenze che subisce. Fra il 3 e l'8% delle donne incinte sono vittime di violenza. Woro dembere kana wa angola na koka ke dumini ko yembo nyini ko dimmo mona fonyo kana wa somali kana wa liberia kele bambali dunye liberia kana wa somali manyuma ko dunye somali. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Ci potete contattare tutti i mercoledì nella nostra sede all'interno della Casa Internazionale delle Donne di via San Francesco di Sales 1B a partire dalle ore 21. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono, segreteria e fax, perché siamo molto tecnologiche, 06 68 64 201, che potrete utilizzare per tutte le comunicazioni, le iniziative e le idee che vorrete inviarci. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo anche un indirizzo di posta elettronica, clrbp@hotmail.com, e naturalmente aspettiamo vostre notizie. E siamo quasi in chiusura di trasmissione, però vogliamo ancora concludere con un'ulteriore diciamo riflessione. Si è molto parlato ovviamente in questi giorni della vicenda tragica di Novi Ligure, la cittadina piemontese che è stata teatro di un duplice omicidio piuttosto efferato, che ha visto come protagonisti due giovani fidanzati. Purtroppo non è una novità, una società degradata come la nostra ci ha abituate ad assistere quotidianamente ad eventi analoghi, il cui unico filo conduttore sembra essere la violenza. Certamente il fatto che gli autori del massacro siano due giovanissimi e che il reato si è perpetrato all'interno della sfera familiare rende la cosa ancora più tragica agli occhi di tutti. Chissà però, ci chiediamo noi, se avrebbe sortito lo stesso clamore se le vittime fossero state due persone extracomunitarie. Ovviamente non staremo qui a ripetere né a sottolineare le possibili ripartizioni delle responsabilità di questo gesto. È evidente che tutte le parti, scuola, famiglia e società, in eguale misura devono farsene carico. Nel gesto tragico della coppia di Novi Ligure non possiamo che ravvisare, purtroppo, il simbolo del disagio di tutta una generazione di giovani cresciuti sulla linea di confine dell'abitudine alla violenza e all'intolleranza e addormentato sui comodi cuscini della società del benessere, in cui troppo spesso il senso della realtà sfugge di mano e dove parole come aiuto, sostegno e solidarietà sono soltanto semplici sostantivi. Probabilmente non riusciremo mai a capire che cosa ha scatenato la furia di questi giovani, ma siamo sicuramente in grado di capire in quale clima questa furia è maturata. In un contesto ricco ed industrializzato, ma non accade solo lì, in cui l'intolleranza e la xenofobia si insinuano come un cancro maligno anche nel tessuto della cosiddetta società normale. In una terra di disvalori, per cui una ragazzina di 17 anni non esita, per coprire il suo crimine, ad addossare la responsabilità del suo gesto ad una fantomatica banda di slavi. E dove le istituzioni, quelle forze politiche che forse ci governeranno, impiegano meno di un minuto a cavalcare la tigre della strumentalizzazione e della demagogia. Tanto siamo in clima di campagna elettorale. E allora fatevi avanti, prego. È aperta la caccia all'immigrato. Tanto, tra quelli albanesi che ammazzano i pedoni sulla strada, quelli che spacciano nei quartieri, fino a quelli che ci tolgono il lavoro, ce n'è quanti ne vuoi. Ma vediamo un po' le reazioni apparse sui giornali. Vi leggiamo qualche titolo tratto dalla Repubblica. Massacrati dai ladri. Uccisi in casa, madre e figlio di 12 anni, caccia ad una banda di slavi. La rabbia della gente, troppi immigrati. Sindaco, è tutta colpa tua, basta case agli immigrati. Sono pressoché certo che si tratti di una banda di slavi, geneticamente e storicamente avvezzi a tali efferatezze. E questo era Marco Zacchera di Alleanza Nazionale in una interrogazione al ministro degli Esteri Bianco. Forse Zacchera ultimamente ha riletto le famose note sugli studi genetici effettuati nei campi di concentramento nazisti dal tristemente noto dottor Mengele. E ancora Borghezio della Lega Nord. Occorre sradicare dalla zona di Novi Ligure le bande criminali di immigrati clandestini che la fanno da padrone, con misure effettive di espulsione. Ovviamente Borghezio è il promotore dell'abortita fiaccolata di protesta contro gli immigrati. Ancora Raffaele Costa. Intervenga la giunta regionale. Fine l'Osservatore Romano. Che si tratti di una psicosi, ingiustificata secondo qualcuno, viste le statistiche relative ai reati, non siamo in grado di dirlo. Non si tratta di disquisire sui termini, di certo si tratta di un timore legittimo per il ripetersi di efferati episodi criminali di fronte ai quali i cittadini appaiono indifesi. E certi proclami, con tanto di inviti alla tranquillità, appaiono più come uscite elettoralistiche che dichiarazioni di responsabili istituzionali. E alla faccia della neutralità e della carità cristiana. Pensiamo ovviamente che non sia necessario aggiungere altro. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it.